221. Bracioline di vitella di latte all'uccelletto. Prendete carne magra di vitella di latte, tagliatela a bracioline sottili e battetele bene con la costola del coltello. Ponete al fuoco in una cacciaruola o nella sauté olio e burro in proporzione, con alcune foglie intere di salvia, e quando queste avranno soffritto un poco, gettateci le bracioline, conditele con sale e pepe, e quando avranno bollito a fuoco vivo per 5 o 6 minuti, spremeteci del limone e mandatele in tavola. È un piatto da servire per colazione.